Altra Europa. 7 minuti dopo le 12, buon sabato da Federico Taddia in diretta su Radio 24 con l'Altra Europa, il nostro appuntamento settimanale dedicato all'Europa delle possibilità, delle opportunità, delle storie, delle persone. Un programma in collaborazione con il network Euronet Plus, tante radio diverse per tentare di raccontare la stessa Europa. Le coordinate per trovarci anche sulle nostre piattaforme digitali, Euronet Plus R24 oppure chiocciola Federico Taddia, Twitter e Facebook. Lì ritrovate tutti i link relativi agli argomenti che toccheremo, oppure euronetplus.eu, il portale di Euronet, o ancora radio24.it, da dove poter poi riascoltare la puntata e scaricare il podcast. Ho dato tutte le istruzioni. Si parte ogni settimana un viaggio. Oggi iniziamo con un viaggio che è lungo come la vita. New Age, new food strategies for healthy aging in Europe. New Age is a European project whose purpose is to draw up a guide of healthy products for people over 65 years old, with the objectives of both slowing the aging process and improving their quality of life. The role of diet in age-related illnesses is a field of research that still needs to be explored. Si chiama New Age, un progetto europeo coordinato dall'Università di Bologna, il cui obiettivo è proprio quello di realizzare una dieta ideale. La finalità non è proprio l'immortalità, la finalità è quella di garantire una buona qualità della vita per il maggior numero possibile di anni, farlo partendo proprio dall'alimentazione. Do il benvenuto a Claudio Franceschi, docente della Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Alma Mater e coordinatore del progetto New Age. Buongiorno Franceschi. Buongiorno, buongiorno a tutti. Benvenuto. Allora, uno studio importante perché parte da una grande ricerca europea. Avete sondato le abitudini alimentari veramente di tante persone. Sì. Il progetto è un grande progetto sponsorizzato, finanziato dalla Unione Europea, dalla Commissione Europea, che ha riguardato 1250 persone reclutate in 5 paesi, sono Inghilterra, Olanda, Polonia, Francia e Italia. Sì. E 250 persone per ogni paese, e a queste 250 persone sono state divise, randomizzate a metà, e a ciascuno è stata proposta la dieta mediterranea oppure sono stati assegnati al braccio di controllo. Quindi abbiamo studiato un totale di più di 600 persone con dieta mediterranea per un anno rispetto a persone che hanno continuato a seguire la propria dieta. La cosa importante è che la dieta mediterranea si sa che fa bene, ci sono molti dati, moltissimi dati in letteratura, che ritarda l'insorgenza di malattie legate all'età, ci protegge da queste malattie, le malattie cardiovascolari, i tumori, l'Alzheimer, la demenza, eccetera, ma nessuno sa i meccanismi. Quindi il progetto ha non solo messo a punto una dieta per gli anziani opportunamente fortificata, ma ha cercato di capire i meccanismi attraverso cui funziona la dieta mediterranea, e quindi prima e dopo la somministrazione della dieta queste persone sono state studiate con tantissimi parametri. Quindi abbiamo più di 2000 parametri più, e l'altra cosa che abbiamo fatto è quella di applicare le più avanzate tecnologie che si chiamano omiche, che consentono di misurare decine, centinaia di migliaia di parametri, che vanno dalla genetica, uno studio su tutto il genoma di questi soggetti, uno studio del microbioma intestinale, della metabolomica e così via. Ma in tutto questo, quindi, c'è tanto di innato o il cambio di dieta porta variazioni sostanziali proprio al nostro essere? Ecco, i dati ovviamente sono tantissimi. Il progetto finisce proprio oggi, quindi sono 5 anni che il progetto è andato avanti. E i dati che sono stati raccolti sono un'enormità, sono tantissimi. Quindi, adesso viene il bello, insomma. Cioè, sì, adesso viene il bello. Comunque diciamo che la cosa interessante è che abbiamo coinvolto per esempio paesi come la Polonia, paesi come l'Inghilterra, dove la dieta mediterranea infatti era questa la domanda, è facile convincerli a cambiare dieta? Sì, è stato abbastanza facile convincerli. E appunto uno dei più grandi risultati che sta emergendo dal nostro studio è che sono importantissime due cose, la nazione dove si è fatto lo studio e il genere, cioè la differenza fra maschi e femmine. Le persone che abbiamo reclutato avevano da 65 a 79 anni e quello che sta emergendo è che appunto ci sono grandissime differenze nei vari paesi, sia dal punto di vista iniziale, sia al cosiddetto tempo zero, quando hanno cominciato la dieta oppure sono andati nel braccio di controllo, e poi anche delle grosse differenze nei risultati finali. Quindi è molto interessante, perché questo aspetto, cioè del fatto che la dieta mediterranea possa avere effetti diversi in popolazioni diverse che hanno una storia diversa, una storia evolutiva diversa, una genetica diversa, una dieta diversa, abitudini alimentari diverse, non era mai stato affrontato. E l'altra cosa che appunto è emersa con grande forza è che uomini e donne sono completamente diversi, cioè per esempio la metabolomica, che consente nelle urine e nel sangue di misurare decine, centinaia di metaboliti, sì, risulta completamente diversa in uomini e donne. Quindi diciamo che il risultato di New Age per adesso ci dice che la dieta va molto personalizzata, mm-hmm, va adattata ai paesi, va adattata al genere, e questa dieta fa bene, nel senso che ha cambiato il microbiota intestinale, ha diminuito i valori ematici di parametri di molecole infiammatorie, quindi sembra che abbia un'influenza antinfiammatoria. Noi abbiamo individuato parametri che ci consentono appunto di capire a chi la dieta fa meglio attraverso la metabolomica. Abbiamo dei dati sulla composizione corporea che sono abbastanza unici, non sono mai stati raccolti tanti dati sulla composizione corporea di più di 1200 persone. Quindi, insomma, mi sembra veramente una mole di dati, sì, assolutamente interessante, sì, e come abbiamo detto poco fa, il bello inizia ora. Ricordiamo il sito, che è newlinetahage.eu. Francesco, l'ultima domanda, sì, devi un attimo dal tema. In una precedente intervista che le ho fatto mi diceva che, siccome appunto lei studia l'alimentazione, ha studiato anche i centenari, i vicini, sì, di casa controllano cosa acquista lei quando fa la spesa. Continua questa osservazione a distanza o si sono rassegnati? No, la cosa importante è che le persone, abbiamo, diciamo, avendo fatto, intervistato tutte queste persone, avendo chiesto abitudini alimentari, fatto diari alimentari eccetera, ci siamo accorti che sta crescendo l'educazione alimentare, mm-hmm, e le persone si stanno impadronendo come devono del loro invecchiamento, della loro salute e soprattutto della loro alimentazione. Quindi c'è una straordinaria attenzione. Io spero che tutti questi studi e questi risultati favoriscano questa educazione alimentare, che è una delle strategie per vivere diventare meglio, anziani in buona salute e continuare a star bene fino a 70, 80, 90 e 100 anni. Questo non lo diciamo all'INPS. Grazie davvero, Franceschi, buona giornata. Buona giornata, arrivederci. Adesso ci fermiamo, un euro post-it, le informazioni per chi sta viaggiando, poi ancora qua con l'altra Europa. Euro post-it. Eurosoul 2016, il Festival dell'Europa in Calabria. In Calabria dal 2 al 9 maggio torna Eurosoul 2016, il festival europeo organizzato da JUMP, Gioventù in Risalto, e patrocinato dalla rappresentanza in Italia della Commissione Europea. Nel programma moltissime iniziative legate alle tematiche dell'Europa contemporanea, declinate in attività di formazione internazionale, apprendimento per bambini, giovani, docenti e cittadinanza. Eurosoul sarà itinerante e visiterà 8 città della Calabria con eventi e ospiti illustri del mondo dell'educazione. Tra le iniziative, anche il concorso per giovani calabresi under 35, Jump Impresa, 1000 euro per la tua idea, e la Coppa Schumann, evento sportivo per giovani campioni europei. Informazioni e programma sul sito eurosoul.eu. L'altra Europa. And I won't hear you cry when I'm gone. I won't know if I'm doing you wrong. I never know if I'm doing you wrong. A constant reminder of where I can find her light that might give up the way is all that I'm asking for. Without her I'm lost. Oh my love, don't fade away. So watch the world tear us apart. È stata una giornata intensa, è stata una giornata emozionante, una giornata toccante, una giornata dove ci sono state tante parole che però non hanno lasciato spazio alla retorica, perché era un ricordo vero, un ricordo sentito, un ricordo di chi quelle ragazze le aveva conosciute. È successo ieri alla Sapienza, presso l'Aula Magna, dove è stata organizzata una giornata intitolata Generazione Erasmus, un valore per l'Europa. Si sono ricordate le 13 ragazze Erasmus, così sono state definite, così si è voluto continuare a chiamarle, che hanno perso la vita nell'incidente in Spagna. 7 di loro erano italiane. E ieri è stata proprio organizzata questa giornata in onore dell'Erasmus, partendo proprio dal loro sogno, che era un sogno di internazionalizzazione, era un sogno di mobilità. C'erano i genitori, c'erano gli amici, c'erano i professori, c'era chi crede nell'Erasmus. Una giornata importante. Tra le tante parole ho scelto quello di Benedetta Cerasoli, che è una studentessa di medicina della Sapienza, che di fatto ha chiuso l'incontro di ieri con una lettera, e ho chiesto se aveva piacere, voglia, disponibilità di essere qua con noi oggi in onda. Ciao Benedetta. Ciao. Ciao. Tu sei una collega di una delle ragazze morta tragicamente nell'incidente, mi dicevi che non l'hai conosciuta, però anche tu ti senti una ragazza Erasmus. Io Elisa Scarascia Mugnozza l'ho conosciuta, cioè l'ho incrociata all'università perché era di un anno più piccola di me, però non l'ho mai conosciuta personalmente, però sicuramente avevamo tante cose in comune, tra cui questo sogno dell'Erasmus che abbiamo in qualche modo sicuramente condiviso. Mm-hmm. E hai scelto di scrivere una lettera, a chi pensavi di indirizzarla quando hai preso quel foglio di carta e una penna in mano? Ho pensato che in questo tragico episodio si è parlato un po' negativamente dell'Erasmus, dicendo che poteva essere pericoloso, e invece ho voluto ribadire quanto fosse importante, quanti valori ha trasmesso a me, sicuramente anche a quelle persone che tragicamente hanno perso la vita, però in un momento sicuramente bello della loro vita. E quindi ho voluto scrivere questa lettera indirizzandola alle istituzioni, all'Europa, all'università, un po' al comune sentire, ecco. È una lettera lunga, articolata, profonda. Ti ho chiesto di estrapolarne uno spezzone proprio per condividerla con i nostri ascoltatori. Lascio a te la lettura di questa parte di lettera. L'Erasmus permette di conoscere l'altro nelle sue potenzialità e nelle sue debolezze, di sviluppare una capacità critica che mi ha portato sorprendentemente a fare un elogio degli studi italiani. Ci si mette a confronto con la diversità del paese ospitante, ma anche di tutti i paesi dai quali provengono gli altri studenti, che diventano una famiglia internazionale in cui si cresce velocemente. Stando lontani da casa si impara anche ad amarla di più. In fondo si scopre che siamo fieri di essere italiani, anche se non lo diciamo in giro. Quest'anno trascorso a Parigi mi ha insegnato a mostrare con orgoglio le mie origini, e in particolare di fronte all'emergenza migranti mi sono sentita felice di essere italiana, di avere come casa il paese europeo più accogliente. L'Erasmus insegna a sentirsi parte di qualcosa di grande, Mentre ero a Parigi, l'Europa ha subito una delle sue più grandi ferite e con lei sono stata ferita anch'io. Gli attentati in cui tante vite sono state strappate via troppo presto per l'insensata violenza follia di pochi mi hanno precipitata nella paura totale, ma poi ho scoperto in me un grande coraggio venuto alla luce grazie alla vicinanza delle istituzioni e alla solidarietà che si respira in momenti tragici e che infonde speranza e fiducia nell'uomo nonostante tutto. Penso proprio che se tutto in Europa funzionasse come l'Erasmus saremmo un continente più in pace, saremmo un popolo di europei. Benedetta Cerasoli, questa è la sua lettera al presente, come ho voluto chiamarla ieri. Grazie davvero Benedetta per le tue parole, che credo siano grazie parole di tante altre ragazze e tanti altri ragazzi che come te hanno vissuto, come te stanno vivendo, come te vivranno l'Erasmus. Ciao! Grazie, ciao! No, I know that I'm not all that you got. I guess that I just thought maybe we could find new ways to fall apart. But our friends are back, so let's raise a tale. Cause I found someone to carry me home tonight. We are young, so proprio a Valeria Solesine, ma di fatto anche alle 13 ragazze che hanno perso la vita, è dedicato il libro di Sandro Gozi, sottosegretario agli affari europei, libro pubblicato da pochi giorni, intitolato Generazione Erasmus al potere, il coraggio della responsabilità. Tre parole chiave: potere, coraggio e responsabilità, forse per disegnare e tratteggiare un'Europa nuova. Buongiorno Gozi, benvenuto all'Altra Europa. Buongiorno a voi. Si può raccontare l'Europa di oggi partendo proprio dall'Erasmus? L'Europa di oggi è un'Europa che ha dato e continua a dare tantissime opportunità, e direi che l'Erasmus è la più grande storia di successo dell'Europa, però è anche un'Europa che ha moltiplicato in questo decennio che io chiamo perduto troppi vincoli, e soprattutto ha perso di essere sinonimo di, ha perso il sinonimo di speranza. L'Europa oggi, soprattutto per i giovani, non è più sinonimo di speranza, e quindi credo che da una parte dobbiamo lavorare per rafforzare l'Europa che moltiplica le opportunità, dall'altra dobbiamo uscire politicamente dallo status quo in cui l'Europa si trova, perché lo status quo sarebbe l'inizio della disintegrazione e noi dobbiamo invece rilanciare l'integrazione europea su tante questioni chiave per il nostro presente e il nostro futuro. In effetti l'Europa raccontata dai ragazzi e dalle ragazze Erasmus sembra lontanissima, diversissima dall'Europa che poi leggiamo sui quotidiani o impariamo a conoscere anche nella nostra quotidianità. Ma questa generazione Erasmus al potere è un auspicio o è già un qualcosa di presente? No, è già qualcosa di presente, è già una realtà, certamente non dappertutto, però ci sono tanti esponenti di tanti governi in Europa che appartengono alle varie generazioni Erasmus, sono pionieri. Io feci il programma Erasmus un mese dopo il crollo del muro di Berlino, dopo ci sono state tante generazioni Erasmus e oggi ci sono esponenti di primo piano, primi ministri, ministri dell'economia, dell'istruzione, della ricerca per l'Europa, che sono il prodotto, diciamo, di quella grande storia di successo che è l'Erasmus, e questo a mio modo di vedere raddoppia le nostre responsabilità, da una parte perché quando si è al governo bisogna sempre avere responsabilità e coraggio, dall'altra parte perché visto che oggi l'Europa rischia di crollare, chi ne ha beneficiato tantissimo come noi che abbiamo potuto utilizzare al meglio l'Europa innanzitutto attraverso l'Erasmus, abbiamo abbiamo una responsabilità ancora maggiore. Io credo che sia arrivato il tempo dei figli rifondatori. Noi dobbiamo tantissimo ai padri fondatori dell'Europa, ma oggi l'Europa deve essere cambiata per salvarla. Se vogliamo salvare l'Europa dobbiamo cambiarla, e questo è il dovere dei figli rifondatori della generazione Erasmus. Credere oggi nell'Europa è una scelta di coraggio? È una scelta assolutamente di coraggio e di determinazione. Non si tratta di essere ottimisti o pessimisti, si tratta di avere la determinazione per affrontare tutte le spinte antieuropee e di coraggio, perché è chiaro che oggi parlare di Europa e vedere nell'Europa la chiave economica della crisi migratoria, della lotta contro il cambiamento climatico, vuol dire andare controcorrente, e soprattutto perché in politica andare controcorrente non è mai facile, e per questo occorre molto coraggio. Però è evidente che chi vuole fare la differenza non può guardare agli umori del giorno o al sondaggio della settimana, deve alzare lo sguardo, e se alziamo lo sguardo tante soluzioni hanno bisogno di Europa, hanno bisogno di un'altra Europa, di un'Europa migliore, più efficace, meno burocratica, più dell'Erasmus. Però è certamente il terreno da gioco su cui noi dobbiamo, ci giochiamo il presente e ci giochiamo il futuro. Generazione Erasmus al potere, il coraggio della responsabilità, questo è il titolo del libro, l'editore Egea, Università Bocconi. Buongiorno Gozi, grazie. Grazie a voi. Ci fermiamo un Europostit, la pubblicità, poi ancora qua, con l'altra Europa. Europostit. European Cycling Challenge 2016. Sei un appassionato di bicicletta e ti piacciono le sfide? Allora attenzione, perché per tutto il mese di maggio in tantissime città d'Europa avrà luogo la European Cycling Challenge 2016, la gara europea a colpi di pedali. Se la tua città è iscritta alla competizione, potrai scaricare la app Cycling 365 dal sito cyclingchallenge.eu, registrare la tua bicicletta e unirti al team cittadino, contribuendo con i tuoi chilometri a far vincere la tua squadra. Per l'Italia, quest'anno partecipano Roma, Bari, Bitonto, Bologna, Cagliari, Mantova, Padova, Ravenna, Reggio Emilia e Verona. La città da battere è Danzica, che lo scorso anno è arrivata prima con 450.000 chilometri tracciati. Ci si può iscrivere fino al 31 maggio. Regolamento e informazioni sul sito cyclingchallenge.it. L'altra Europa. Ancora buon sabato da Federico Taddia, questo è sempre l'altra Europa, Federico Taddia, Twitter e Facebook, per trovare le segnalazioni minuto per minuto con tutti i link relativi agli argomenti che stiamo toccando. Abbiamo parlato di questa strana Europa, di questa Europa in pericolo, di questa Europa a rischio implosione, e continuiamo a farlo attraverso un progetto assolutamente innovativo e attuale. Cosa succede quando il sogno europeo incontra il sogno dei migranti? Questa è la domanda con cui si apre Europa Dreaming, un progetto online, un web doc legato ai confini di questa Europa, confini fisici ma anche confini mentali. Diamo il benvenuto al suo ideatore, Matteo Moretti, ricercatore presso la Facoltà di Design e Arti della Libera Università di Bolzano. Ciao Matteo. Ciao Federico. Allora, Europa Dreaming, un titolo che, anche qui, la stessa domanda che ho fatto prima, è un auspicio o è una provocazione? Entrambi, diciamo, nel senso che appunto quello che abbiamo cercato di capire è, attraverso questo lavoro, che fine fa o che fine andrà a fare il sogno europeo. Mm-hmm. E in qualche modo poi quello che cerchiamo di spiegare nel progetto, che non mira certo a dare soluzioni, non ci sono soluzioni facili a questa situazione, quanto più aprire invece una riflessione e chiedersi un po' se quello che è stato fatto finora va nella direzione giusta. nel nostro lavoro, quindi facciamo alcune precisazioni, come ad esempio che il sogno europeo non coincide con Schengen secondo noi, anzi Schengen è proprio l'inizio di quello che è l'incubo europeo, perché in qualche modo spostando i confini da interni a esterni ha spostato il problema sui paesi affacciati sul Mediterraneo, o ad esempio anche la mancanza di uno status di rifugiato che sia il più condiviso possibile tra i vari paesi, nel senso che abbia delle condizioni omogenee, non ci siano disparità così grandi rispetto ai tempi di processo di una domanda o delle condizioni. Quindi paradossalmente ci vorrebbe più Europa? Paradossalmente sì, e quello che poi andiamo a fare appunto è raccontare questo sogno che si sta in qualche modo infrangendo, sta venendo per mano dell'Europa, nel senso che i migranti sì sono diciamo la scintilla che fa scattare il meccanismo, ma in realtà è una serie di regolamentazioni e di leggi che non sono affatto unitarie. Quello che, di cui parliamo anche nel progetto, è come questa Europa sia molto più unita in ambito economico rispetto a quello umanitario. Certo. Avete esplorato anche nuovi linguaggi per raccontare questa Europa. Tenti di farceli vedere via radio, quello che, okay, che avete combinato. Quello che abbiamo cercato di fare con questi nuovi linguaggi è anche quello di relativizzare il fenomeno, quindi di contestualizzarlo in un arco temporale più ampio. Quindi abbiamo fatto in due modi. Uno è nell'arco degli ultimi 20 anni, quindi da quando Schengen è stato varato, sì, attraverso le dichiarazioni dell'europarlamentare Alexander Langer, che proprio nel 95 faceva delle dichiarazioni molto importanti e assolutamente attuali. Una su tutte, faccio un esempio, è come lui sia orgoglioso di essere italiano, proprio perché l'Italia viene giudicata dai paesi nord europei un paese troppo permeabile, nel senso che lascia passare i migranti diretti verso il nord Europa. Sì. Sempre Langer ha lasciato queste dichiarazioni a Ventimiglia nel 2005, dove è stato fermato al confine insieme a un gruppo di profughi della Bosnia e Erzegovina che si recavano a Cannes per chiedere l'annessione della Bosnia in Europa. E quindi facciamo un parallelo tra Ventimiglia nel 1995 e Ventimiglia nel 2015, in cui la situazione si è ripetuta con un altro tipo di profughi, ma il meccanismo era sempre quello. L'altro, diciamo, relativizzazione temporale l'abbiamo fatta perché noi, essendo qua a Bolzano, mm-hmm, il progetto cerca di connettere il fenomeno del Brennero, che adesso è al centro, diciamo, dell'attenzione, e raccontando la storia del Brennero attraverso una timeline interattiva in cui si vedono gli ultimi 100 anni di passaggi di esseri umani al Brennero, quindi dai profughi della Seconda Guerra Mondiale a quelli della guerra dell'ex Jugoslavia, ma anche i lavoratori ospiti italiani che si recavano in Germania con permessi di lavoro temporaneo, prendendo lo stesso treno che adesso prendono i profughi siriani per recarsi in Germania. Matteo, ma quindi, studiare questi 100 anni di Brennero, e voi già ve l'aspettavate la scelta del muro, la minaccia del muro? No, esattamente, nel senso che il progetto era pronto già qualche mese fa e raccontava un po' i muri d'Europa, ma non contemplava assolutamente il Brennero. Quando l'Austria poi ha fatto questa dichiarazione di voler ripristinare i controlli al confine, ci siamo un attimo guardati in faccia e abbiamo detto che non possiamo presentarlo adesso perché sarebbe un progetto incompleto e sarebbe sciocco, uh-huh, ignorare questa cosa. Solo che quello che sta succedendo poi è che questo muro è stato, diciamo, proclamato a gennaio, tuttora non si capisce bene. Adesso c'è stata la settimana scorsa una conferenza stampa in cui si capisce qualche dettaglio in più. Sì, però appunto, perché l'Austria è vicina alle elezioni, all'inizio sembrava un proclamo, adesso si sta più o meno configurando e abbiamo dovuto in qualche modo correre ai ripari, quindi aggiornare anche la storia del Brennero, perché appunto il nostro ultimo step in questa timeline era col 98, viene abolito il confine. Mm-hmm. E adesso c'è una bandierina relativa al 2016 con il ritorno del confine, punto di domanda, proprio perché non si sa cosa succederà. Insomma, questa è anche la bellezza e le potenzialità di lavorare con questi nuovi linguaggi, no? Che ti permettono veramente di analizzare 100 anni e all'ultimo istante poter cambiare l'ultimo giorno. Europadreaming.eu, questo è il portale per conoscere nel dettaglio il progetto. Matteo, noi ci ritroveremo sicuramente comunque nelle prossime puntate, perché questa storia sta continuando e magari la continuiamo insieme. Grazie ancora e complimenti. Ciao, grazie, buon lavoro. Grazie. Ciao, ciao, grazie. Europost-it. Sarajevo Summer School. Sei interessato ai temi dell'integrazione e sei alla ricerca di una summer school adatta a te? L'Università Milano Bicocca, insieme alle Università di Sarajevo e Sarajevo Est, organizzano l'International Summer School Rethinking the Culture of Tolerance, che si terrà nella capitale bosniaca dal 19 al 25 settembre 2016. La scuola estiva sarà dedicata al tema dell'integrazione tra gli individui e i gruppi, nella prospettiva dei processi di costruzione dell'Unione Europea. Le iscrizioni resteranno aperte fino al 10 giugno. Tutte le informazioni sulle modalità di partecipazione e sui programmi sono disponibili nella sezione Summer Schools del sito dell'Università Bicocca, unimib.it. Sometimes when this place gets kind of empty, sound of their breath fades with the light. Lower the curtain down in Memphis. Lower the curtain down on right. I got no time for private consultation under the Milky Way tonight. Wish I knew what you were looking for. Might have known what you would find. Oggi all'Alta Europa viaggiamo nel tempo in maniera strana. Siamo partiti parlando di europei centenari, abbiamo analizzato invece i 100 anni del Brenner, ora è... Allunghiamo un po' il nostro metro di misura perché parliamo di milioni di anni. Andiamo alle origini del nostro pianeta e lo facciamo con un progetto europeo che ha permesso all'Europa di avere il suo primo documento strategico che identifica le linee di studio sull'origine e l'evoluzione dei sistemi planetari. Detta così, pare un qualcosa di molto complicato, penso che in verità sia ancora più complicato. Diamo il benvenuto a John Brucato, astrofisico ed esobiologo dell'Osservatorio Astronomico di Arcetri, dove c'è il cuore di Astromap, che è questo progetto che vi ho illustrato. Buongiorno Brucato. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, documento strategico, già la parola fa paura. A cosa state studiando di fatto? Beh, allora, innanzitutto quello che bisogna fare è un attimo introdurre il tema di questo documento, che è l'astrobiologia. L'astrobiologia sì. è una scienza nuova, recente, che si occupa dello studio delle origini, appunto, della vita sul nostro pianeta e se la vita è presente in altri sistemi planetari o nei nostri dintorni, nei nostri pianeti o lune, dei pianeti giganti che sono presenti nel nostro sistema solare. Perché l'obiettivo è sempre quello, cercare di capire se c'è vita e dove, soprattutto. Esatto. Da una parte capire quali sono stati i meccanismi che sono avvenuti sul nostro pianeta e dall'altra cercare di individuare quelle che sono le biosignature, queste impronte digitali che ci permettono di rivelare la presenza di vita su altri corpi. Allora, per fare questo tipo di ricerca è necessario che parlino tra di loro gruppi di ricercatori che provengono da ambiti culturali diversi. Quindi questa è stata, diciamo, la prima grande svolta che l'astrobiologia ha portato, è proprio il fatto di poter far sì che da una parte biologi con chimici, astrofisici, planetologi, geologi parlassero insieme, si confrontassero, perché questo tipo di problema è multidisciplinare proprio per la sua natura, proprio perché riguarda vari ambiti, varie problematiche. Di conseguenza questa è stata, diciamo, il primo passo in avanti che si è fatto, proprio perché ognuno di questi ambiti, che storicamente è stato sempre, diciamo, chiuso, sì, ha la necessità di interagire e di parlarsi, quindi i linguaggi sono diversi. E quindi all'inizio c'è proprio una difficoltà nel capirsi, nel capire. Brucato, le chiedo un minuto di pazienza, torniamo con i piedi per terra e diamo le informazioni per chi sta viaggiando, poi torno immediatamente da lei. L'altra Europa. Eccoci qua, l'altra Europa, ancora con John Brucato per parlare di AstroMap, questo progetto multidisciplinare per studiare di fatto gli altri pianeti, che poi vuol dire studiare meglio il nostro pianeta e l'origine della vita sulla Terra. Brucato ci stava dicendo appunto quello che è un po' l'input iniziale, quindi linguaggi diversi che trovano un percorso comune, ed ora cosa accadrà? E adesso appunto grazie a un progetto della comunità europea abbiamo messo insieme vari gruppi di ricerca che si trovano un po' sparsi in tutta Europa e che si occupano di queste tematiche per cercare di delineare quelle che sono le prossime milestone, quindi quali sono i prossimi obiettivi che bisogna raggiungere, cercando di in qualche modo dare un indirizzo attraverso questo documento che è tutta la roadmap. E chiaramente ci sono vari approcci che possono essere affrontati, e questi approcci hanno cercato considerare le potenzialità che ogni nazione, compresa appunto l'Italia, ha, e quali sono appunto i vantaggi che questo tipo di approccio può dare poi alla nostra comunità italiana e poi un po' a tutta quella europea. Quindi di fatto la roadmap cerca di indicare delle linee guida, e queste linee sono sviluppare delle tecniche che permettono di distinguere la vita dalla non vita, operazione che può in un primo momento sembrare banale. Infatti tutti noi riusciamo ogni volta che ci si chiede, o che qualcuno che si occupa di questo argomento fa questa domanda, riusciamo a distinguere ciò che è vivente da ciò che non lo è, però quando vogliamo dare una definizione di vita, allora iniziano lì i problemi, perché questo tipo di definizione ancora oggi non esiste, oppure ne esistono tantissime, perché ogni gruppo ha la propria. Quindi quando andiamo a cercare segni di vita da un'altra parte, in un altro pianeta, la prima cosa che dobbiamo fare è cercare di capire cosa è vivente e distinguerlo da ciò che non lo è. E per fare questo chiaramente bisogna sviluppare delle tecnologie e delle metodologie, più che delle oltre che a delle tecniche appunto. Oltre a questo appunto abbiamo anche la necessità di scoprire quella che è la sorgente di energia che poi mantiene questi organismi viventi in questi altri ambienti. Se guardiamo Marte, che è l'obiettivo a breve termine dell'esplorazione del nostro sistema solare, sia americano che europeo, proprio per la ricerca di segni di vita, Marte ha una composizione chimica, l'atmosfera e la superficie diversa da quella terrestre, ha una storia geologica diversa, e quindi praticamente andare su questo pianeta, supponendo che esista della vita, dobbiamo capire come questa vita si mantiene in queste condizioni che sono appunto diverse dal nostro pianeta stesso. Quindi noi possiamo andare a trovare certe caratteristiche che potevano essere presenti all'inizio nel nostro pianeta Terra, quando la vita si è formata, oppure situazioni che si sono evolute e che quindi si sono adattate ad un ambiente completamente differente. Oggi appunto Marte, ecco, sappiamo, è arido, mentre in passato sappiamo che era appunto c'era l'acqua sulla superficie di Marte. Questo è insomma un po' il quadro, giusto? Un assaggio di quello che è il progetto. Sì. Brucato, la prima volta che ha visto E.T. da giovane, cosa ha pensato? Dunque, è stata certamente insomma una bella emozione, un bel film. Non sono mai stato, come dire, affascinato da un punto di vista della fantascienza, okay. E quindi ho visto sempre la cosa un po' da un punto di vista razionale, però vabbè, questa è una mia distorsione, io non voglio con questo giustamente dissuadere gli altri che invece trovano affascinanti e coinvolgenti questo tipo di racconti. John Brucato, grazie davvero, buon lavoro a lei e tutto il suo team, salve. Io mi sento un po' rifugiato, però credo che questo sia il rifugio più bello del mondo. As músicas son flores que brotan das nossas peles, respiram nosso sentimento e dão cor ao coração. Arrivato qua, dico, io italiano, esuberante, attore, in 2 mesi diventa il re di Lisbona. C'è chi va a cercare nuova vita su Marte, c'è chi invece si accontenta di andare un po' più vicino e va a Lisbona. Sono le storie raccontate da un doc sugli italiani espatriati, un film documentario. Con noi uno degli autori, Massimiliano Rossi. Ciao Massimiliano. Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti. Mi sentite? Ti sentiamo molto bene, grazie. Ok. Allora, tu insieme a Luca Onesti e Daniele Coltrinari avete fatto questo lavoro durato diversi anni con tanto di crowdfunding sulla piattaforma Produzione dal Basso per andare a raccontare nuove vite a Lisbona. Come mai proprio lì e da cosa è nata l'idea di realizzare un video, un film, un corto? Dunque, il fatto è che tutti e tre frequentavamo comunque il Portogallo da diversi anni. Io più o meno da 7 anni sono ancora a Lisbona, adesso sono venuto proprio perché abbiamo presentato il film al Festival del Cinema Italiano, sì. Qui in Portogallo, il 7 aprile proprio, quindi. Il film è così, la domanda è stata: negli ultimi anni molti portoghesi sono emigrati dal paese in cerca di lavoro, addirittura l'ex primo ministro aveva consigliato proprio questa scelta ai propri concittadini, suscitando varie polemiche. Al contrario, ci siamo accorti che numerosi italiani sono arrivati appunto nella capitale lusitana. Ecco, volevamo, ci siamo chiesti il perché, volevamo fare un film che raccontasse questa scelta in controtendenza. C'è una risposta, c'è una risposta a questo perché? C'è una risposta univoca o sono... La risposta, diciamo, io mi sono fatto un'idea, ecco, però non te la voglio dire perché voglio che gli spettatori vedano il film e si facciano una propria idea. Okay. Anche perché credo proprio il metodo che abbiamo usato, appunto, che è un documentario, credo sia un po' una finestra, diciamo, sulla realtà, cioè uno spunto per poi lo spettatore approfondire insomma, la propria opinione su questo fenomeno un po' strano. Film che si può vedere dove? Allora, il film si può scaricare, c'è ancora un crowdfunding, sì. Con una piccola donazione si va su Produzioni dal Basso e si cerca il film, si chiama Lisbon Stories. E si può scaricare, si può vedere. Perfetto. Ti volevo dire un'altra cosa. Questo è un documentario, come dire, quello che emerge, ecco, dall'intervista che abbiamo fatto è che le scelte che fanno le persone che vanno qua non sono legate direttamente al lavoro, magari come Berlino o Londra, ma ci sono anche altre scelte che riguardano un po' la qualità della vita, per esempio. Che qui molte persone, soprattutto quelle che vivono a Roma o a Milano, pensano sia meglio in queste questioni di trasporti, per esempio, o altre cose, l'accessibilità, la burocrazia un po' più snella e altri fattori così. Se dico Lisbona, qual è il primo aggettivo che ti viene in mente? Luce, quello dicono un po' tutti, anche per la conformazione architettonica, diciamo, molti palazzi sono ricoperti di questi azulejos, che sono le maioliche, e che riflettono molto la luce del fiume, che qua sembra un mare perché è abbastanza grande, come dire. Certo. Grazie davvero. Allora, vi ricordo ancora Lisbon Stories, Produzioni dal Basso, una piccola offerta per poter scaricare questo documentario che racconta nuove vite di italiani a Lisbona. Ciao Massimiliano, buon lavoro, complimenti. Grazie a voi. E con questo chiudiamo la puntata di oggi dell'Altra Europa. Vi ricordo che sarò in onda anche domani alle 9 con uno speciale di Terra in Vista, la cucina spiegata a mio figlio, quindi domani mattina dalle 9 alle 10. Insomma, tanti ospiti per parlare di cibo e cucina ai più piccoli. L'appuntamento invece con l'Altra Europa, come sempre, a sabato prossimo. Un grazie a tutta la squadra, Andrea Roccabella oggi alla parte tecnica, Claudia Schiattone invece in assistenza, Silvia Righini e Miriam Lucchetti con me hanno scritto la puntata. Radio24.it per poter scaricare il podcast. Ancora ciao da Federico Taddia. L'Altra Europa, in collaborazione con Euronet Plus.